Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Another great play. Rodgers gets the snap. Blitz is on. Rodgers scrambles left. Winds up rainbow. Cobb. He's got Cobb at the 10 to the 5. Yes! To the end zone. Touchdown and a dagger. Oh, my goodness. An NFC North Division championship dagger of 47 yards. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 26 se non vado errato, e soprattutto la prima della nuova stagione, la prima ufficiale della nuova stagione. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Eccomi Sal, ci siamo, stasera si parte, domenica tocca a noi. Carichi come delle molle, a me sembra strano sinceramente che inizi già la stagione, perché sembra passati 10 anni ma pensavo non arrivasse più la stagione, per cui Quindi oggi non parliamo di Seattle? Oggi assolutamente no, oggi parliamo di Green Bay Packers e Chicago Bears, pensa te. Quindi per cambiare. C'è di peggio. Tanto di peggio. Poi parleremo di Seattle la settimana prossima. Per cui... la settimana prossima è proprio... Succede proprio l'inverosimile, però vabbè. Dannato. Vabbè, andando oltre, allora, intanto ricordiamo l'appuntamento perché magari non ve lo siete tatuato sulla pelle come noi. Domenica, ore 19 italiane, i Packers giocheranno a Chicago, week 1 contro i Bears. Allora, noi volevamo iniziare prima con un rapido riassunto delle puntate precedenti, ossia... Rapido! Ma rapidissimo, i 53 più 2 più 10 che parteciperanno alla stagione 2015 dei Packers. 53 sono quelli ufficiali attualmente disponibili, che sono quelli del roster, più 2 che sono quelli squalificati e 10 della practice squad. Quindi, grosse sorprese dalla 53-man roster non ne sono arrivate. Se proprio possiamo dire... taglio di Rajon Neal a favore di Alonso Harris, che probabilmente non si aspettava neanche lui. Era lo sleeper che però aveva fatto vedere delle buonissime cose e sì. Dove era stato limitato da quell'infortunio alla mano, però aveva fatto vedere, ecco, i Patriots che aveva fatto quel touchdown di 25, di corsa di 26 yard con touchdown, mi pare. Sì, sì, e forse come modo di correre molto più simile a Lacy degli altri due. Sì, poi offre magari molte più garanzie per quanto riguarda la pass protection, un po' meno per ricevere il pallone fuori dal backfield, ma insomma può migliorare in questo, speriamo non debba giocare intensamente. Esatto. Ecco. È vero anche questo. Ricevitori 5, qua c'è stata un po' di controversia perché il povero Miles White era entrato nei 53 finalmente al terzo tentativo, ma è durato 24 ore, poveraccio. È stato poi tagliato a favore di James Jones. Sono usciti i dati del contratto di James Jones, che ha firmato per un anno al minimo salariale dei veterani, che è $870,000, che però peseranno sul cap per soli $585,000 per via dell'esenzione dei veterani, per cui discreto affare, dai. Sì, dai, ci sta. A quel prezzo lì, sì, sappiamo, non verrà sicuramente a rimpiazzare il ruolo di Jordy Nelson. Sarà quella, diciamo che è una firma che farà contento sicuramente Rodgers, secondo me, e sarà quel terzo o quarto wide receiver della depth chart, è quello che in teoria dovrebbe portare un po' di esperienza nello spogliatoio, all'interno del gruppo di ricevitori che è molto, comunque molto giovane, e magari porta quella confidenza in Rodgers, che magari vede qualcuno di cui può fidarsi magari nell'immediato. Sì, tra l'altro ieri negli spogliatoi dopo l'allenamento ha detto ai giornalisti una cosa del tipo speravo un po' che si andasse in questa direzione, quasi dicendo speravo che lo tagliassero così potevamo prendere noi, per cui insomma era abbastanza carico anche lui per questo e ci sta. Pare 310 ricezioni per lui con i Packers, è un super. Sì, beh, comunque ricordiamo che 2 o 3 anni fa è stato il leader dei touchdown dell'intera NFL, quindi cioè, vuol dire, magari non avrà quel ruolo di go-to guy, che sicuramente sarà qualcun altro, ok? Però magari quei giochi dove magari ti serve la conquista del primo down e magari dove Rodgers, soprattutto all'inizio della stagione, non può fidarsi molto di Montgomery, dello stesso Adams, magari guarderà Jones e speriamo bene, insomma. Sì, poi dà la possibilità in ogni caso di non affrettare lo sviluppo dei più giovani. Esattamente. Poi vediamo un po', andando avanti, la scelta è stata quella di portare 9 offensive linemen, quindi il nono in questo caso è Josh Walker, di cui si parla molto bene. L'avevo detto io. Eh sì, tu ci avevi preso in questo. E per quanto riguarda la difesa, lì niente sorprese, se non il fatto che si va abbastanza carichi per quanto riguarda defensive back, che sono 11 al momento, con l'inserimento anche di Goodson, che pareva essere un po' in ballo tra appunto lui e Banjo. Alla fine si è optato per portarli tutti e due, e poi non si sa veramente chi verrà tagliato per fare posto a Dayton Jones già lunedì, e probabilmente in questo senso un piccolo indizio si avrà dalla lista dei 46 che saranno attivi domenica. In Esatto, sicuramente sì. Esatto. ogni caso, per questo, insomma, di questo ne parleremo più avanti. La practice squad, intanto, Miles White, povero Cristo, ha firmato con la practice squad dei Giants, per cui un posticino di lavoro l'ha trovato. Tra l'altro, in practice squad il minimo salariale è 6.600 dollari a settimana, per cui insomma io. Io metterei la firma comunque, però. Sì, a me andrebbe Anche al bene. mese, sarei bravo. Certo, la cosa che ho sempre pensato quando questi giocatori che non prendono nulla sono comunque nello spogliatoio assieme a persone che prendono milioni e milioni di dollari, anche solo, che ne so, andiamo a mangiare una pizza fuori e andiamo fuori a fare serata, loro consumano tutto lo stipendio, mentre invece per i veterani non è Sì, niente. beh sì, deve essere un po' particolare, sinceramente. Comunque, la nostra practice squad invece, da quest'anno tra l'altro, invece che 8 sono 10 giocatori della practice squad, è composta da Rotherham e Vucinic, che in teoria si chiama Vucinovic, due offensive linemen, poi Crockett come running back, che è riuscito a finire in practice squad nonostante fosse richiestissimo dopo il draft, come ricevitori Abre Darris ed Ed Williams, tight end Periglio, defensive line Ringo, linebacker Bowters Bradford. Poi cornerback c'è una novità, Robertson Daniel, che è un undrafted free agent da BYU, era stato firmato dai Raiders dove ha fatto il training camp e poi è stato tagliato con il primo taglio, quello dei 75, è un 6-1, quindi abbastanza alto e grosso, per cui probabilmente è la nuova moda per quanto riguarda Ted, che di solito preferiva i cornerback un po' più bassini, sui 5-11, non di più, mentre invece tra Gunter e questo Robertson Daniel, che pare un buon progetto perché comunque corre abbastanza veloce, 4-40 mi pare, insomma, magari c'è del materiale su cui lavorare, poi quando si ha Joe Witt come cornerback coach le gemme vengono fuori, dai, vediamo cosa Sì. salta Ecco, fuori. E quindi questa è la practice squad. domanda perché io mi sono perso un po' di pezzi negli ultimi giorni. Regionale, che fine ha fatto? Allora, Rajon Neal, ah giusto, ha firmato con i Dolphins, la practice squad, è durato anche lui un giorno e dopo è stato tagliato a favore di Jonas Gray, che è finito Ah, quindi quel. da New England alla practice squad dei Dolphins. Ok, e quindi Regionale free agent in questo momento. Esatto, meno che non ci siano stati sviluppi nelle ultime ore, fino a ieri era così. Infatti Ok, anche lui, poi, è un business crudele. Comunque. E volevo solo dire, prima di passare alle cose serie, fare un aggiornamento sul salary cap, perché con i 53 che non sono comunque definitivi, perché comunque devono rientrare anche Dayton Jones e Letroy Guyon, siamo a 15,68 milioni di dollari sotto il cap, con la dead money che successivamente ai tagli dei due draft pick dell'anno scorso, quindi Bradford e Thornton, che tra l'altro è finito a New England, è aumentata la dead money, dicevo, fino ad aggiungere a 3,5 milioni di dollari, poca cosa rispetto a chi ne ha 20, quindi giusto così per dirlo, sai che sono un nerd e quindi queste cose le dico. esatto. Niente, Chicago, parliamo di Chicago. Allora, a parentesi, stanotte si comincia Pittsburgh Steelers at New England Patriots, ore 2:30 italiane, mi pare, vero? Sì. Kick-off, vabbè, è una partita di AFC, quindi ci interessa relativamente poco, non troveremo nessuna delle due squadre, partita che ha interesse perché giocherà Brady. A voi i commenti sul fatto che la squalifica fosse stata annullata. E spero di vedere, cioè, penso di fare la notte io, come penso che sicuramente la farei te. Eh sì. Spero di vedere una partita godibile, insomma, no? Gli ultimi opener, di cui noi abbiamo giocato l'anno scorso, non sono stati sto granché. L'ultimo opener che mi pare molto molto bello è stato proprio il nostro contro i Saints nel 2011, 2010 forse. E niente, stasera si comincia e poi si comincia a fare da sul serio. Sì, purtroppo per lo spettacolo gli Steelers saranno senza Le'Veon Bell, che è squalificato per le prime due giornate, quindi insomma Esatto, è vero, penso che vero. questa sia anche... A lui non l'hanno tolta la squalifica, vero? Infatti, penso che sia la partita più difficile della stagione dei Patriots, stando alla schedule, per cui insomma, buon per loro, dai. E niente, dai. Allora, dovevamo avere un grossissimo ospite questa sera, purtroppo che non può essere presente, ma speriamo di farle, di averlo settimana prossima per commentare la partita. È il grandissimo Alessandro Santini, Cinaschi di Plate. Penso non abbia, gli appassionati di football che seguono il football dall'Italia non adesso abbia bisogno di presentazioni, però speriamo di averlo ospite con noi settimana prossima. Doveva parlarci appunto di Chicago e io ho scambiato due parole con lui e anche lui non è molto, diciamo, ottimista per la stagione che di cui aspetta Chicago, ma lascio a questo punto parlare Salvatore che ne sa sicuramente più di me. Non più di Alessandro, però. No, su Chicago penso proprio di no, però. Allora, i Bears hanno cambiato molto a livello di staff e coaching staff, perché è andato via il loro general manager, che era Emery, che ha fatto discrete stronzate con quel contratto a Cutler, per esempio. Beh, quello era. Ecco, quello è. Ci sarebbe da discutere, secondo su quello. Cioè, però, vabbè. Beh, diciamo che col senno di poi il primo anno di questo contratto non è andato benissimo, dai. Ok. Allora, il nuovo general manager è Ryan Pace, che non so sinceramente chi sia. In ogni caso, quello che interessa magari un po' di più a noi è il nuovo coach, che è John Fox, l'ex coach dei Denver Broncos, che si è portato dietro come offensive coordinator Adam Gase, che era con lui anche a Denver, e come defensive coordinator uno che ultimamente ci ha fatto dannare abbastanza, che è Vic Fangio, o Fangio come volete dirlo, cioè l'allenatore della difesa dei 49ers, che negli ultimi anni ci ha fatto andare, negli ultimi quattro confronti, 0-4. Ci ha dato qualche mazzata, ci ha dato, sì. Sì, diciamo che il personale che avrà a disposizione per quanto riguarda la difesa è leggermente diverso rispetto a quei Ma giusto un 49ers. po'. Per cui magari da questo punto di vista possiamo stare un po' più tranquilli. In ogni caso sono abbastanza in rebuilding mode. I Bears hanno 23 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, nei 53, 10 starter nuovi, e non è che abbiano tantissimo talento. Visto la loro depth chart, hanno diversi veterani, 6-7 anni nella Lega, per cui a livello di upside probabilmente questi giocatori non è che ne abbiano tantissimi. C'è qualche scelta del draft interessante e andiamo per ordine magari. Per esempio, in attacco loro avevano preso Kevin White, che l'hanno preso mi pare con la decima assoluta, avevano nona, decima, Sì, questa. qualcosa del genere, qualcosa del genere. Pensavo potesse essere un discreto crack, perché un ottimo giocatore, veloce, fisico, eccetera, e purtroppo, perché comunque è pur sempre una sfiga, nonostante sia di un avversario. Si è infortunato e salterà probabilmente tutta la stagione. Non è ancora chiaro questa cosa, ma mi pare sia in IR. Per cui, come ricevitori, hanno dato via Brandon Marshall, che è andato ai Jets, e sono rimasti con Alshon Jeffery, il loro featured receiver rispetto all'anno scorso, il numero 17. Poi c'è Eddie Royer, che è arrivato quest'anno, e dopodiché hanno un po' di personaggi sconosciuti. Per esempio, vabbè, Marques Wilson non è male, è abbastanza veloce. Nello slot può fare qualche danno. E poi hanno Mariani, che è il numero 80, fa anche il ritornatore, e Bellamy, il numero 11. Hanno come esperienza nella Lega rispettivamente 5 e 3 anni, e in tutto hanno ricevuto 5 palloni in questi 5 e 3 anni. Per No, cui. beh, e peraltro tra questi mi pare che Alshon Jeffery arrivi malandato perché mi pare che sia un mese che non si alleni Sì. e quindi non sarà sicuramente al 100%, anche se sulla carta è un buonissimo, più che discreto wide receiver, peraltro l'ho preso io al fantasy draft. Io Jeffery l'ho preso al draft perché appunto consigliato dal fidanzato di mio nipote che è qui a farmi, o tifoso di Jets, che è qui a farci visita, e Cutler dovrà comunque lanciare a qualcuno, e quindi Jeffrey era qualche numero, magari riuscirà a metterlo su in stagione. Ecco, piccolo inciso e polemica, visto che non avevo avuto modo di dirtelo, mi hai anche fregato John Brown, maledetto. No, perché dovete sapere che io gli avevo consigliato dei giocatori per il draft di Play It che ha fatto qualche giorno prima, gli ho detto: ma prendi John Brown, che secondo me avrà una grande stagione. Infatti non l'ho preso di là perché me l'hanno portato via. L'ho preso E al draft. giustamente l'ha fregato a me. Infatti gli ho subito commentato: rubinato traditore, però vabbè. Ci sta, ci sta. è un business, è un business. Allora, sì, Jeffrey ieri si è allenato, mi pare sia stato un allenamento completo, quindi non limited, anche se appunto dopo un mese vedremo come sarà, probabilmente giocherà. No, magari quello che ci potrà far paura è il classico tight end da 142 kg e 2,5 m, che è Martellus Bennett. Ecco, però diciamo che dal punto di vista dell'attacco, l'attacco di Chicago vivrà e morirà con Matt Forte, che è sicuramente un grandissimo running back, uno forse dei più grandi degli ultimi 5-6 anni, possiamo dirlo tranquillamente. Sì, E infatti leggevo che Chinaski. da quando è entrato nella Lega è il running back che ha fatto più yards, ovviamente con Peterson che ha perso un anno, Eh per sì, poi cui. comunque giocando contro di noi, che facciamo schifo contro le corse, è avvantaggiata anche qui. E quindi anche Chinaschi era un po' preoccupato perché abbiamo sprecato gli anni buoni di Forte per niente, praticamente, e le due parole che abbiamo scambiato. Il problema qual è? Il problema dell'attacco è, a parte Cutler, che sul di quale io ho una teoria tutta mia particolare, ed è sul quale, secondo me, l'anno scorso non era per niente malaccio, ma se poi se sui metti 30 punti e la difesa ne prende 50, comunque non vinci, ok? Dopo magari lui sarà uno stronzo nello spogliatoio e questo, cioè, non lo aiuta sicuramente. Il grosso problema, secondo me, di Bears è l'offensive line, ok? Ha tagliato, mi pare, l'unica cosa che ho sentito è che hanno tagliato Jordan Mills. Mills, esatto, che era right tackle, mi pare, dell'anno scorso, degli ultimi 2 anni, Sì. e quindi c'è cioè, proprio alla vigilia praticamente della first week tagliano il retake titolare, forse non hanno l'idea ben chiara neanche loro, e quindi sembra che portino Kyle Long, che è la prima scelta dell'anno scorso, che giocava alla riguardia, tra l'altro molto, molto che ha giocato molto molto bene, sembra venga spostata a right tackle, e quindi sembrano non abbiano non sappiano cosa che pesci pigliare Sì, praticamente. tra l'altro, per carità, Kyle Long è probabilmente il loro migliore uomo di linea e spostarlo a right tackle, che era posizione di necessità, probabilmente ha senso, però in questo modo, in ogni caso, diciamo che perdi un po' nella posizione centrale della linea di attacco, Esatto, che è da dove esatto. magari, che ne so, alcuni schemi di zone blocking potevano far passare delle corse di Forte, per cui un po' si perde. Poi il suo sostituto è Ducasse, numero 62. Vedi che il mio scouting report l'ho fatto abbastanza bene. Lo sapevo già, sapevo che potevo contare su di te. Uno Quando di due sei deve essere nerd. preparato. No, uno di due deve essere preparato, solo per quello. Questo Ducasse viene descritto come un po' erratic, non so, lunatico. Può alternare magari buone prestazioni ad altre abbastanza Beh, lui deficitarie. è stato un free agent preso da qualcuno o è una scelta al draft, questo tuo caso? Questo non lo so, qua mi cogli impreparato, sinceramente. Ti posso dire il numero, ma questo non lo so. Penso che fosse già roster, però non lo so. E in ogni caso è abbastanza forte, ma sì, probabilmente nel passaggio si guadagna qualcosa in più a right tackle in quanto a sicurezza per quanto riguarda la pass rush, ma si perde un po' nella protezione della tasca all'interno, speriamo. Per il resto, come left tackle, adesso hanno Bushrod, Sì. Sì, 6 anni titolare, nel 2014 ha avuto una brutta stagione tormentata da infortuni alla schiena e anche questa off-season. l'avevano ben pagata dai Saints 1 o 2 anni fa, e se sì, anche lui non ha fatto sto granché, però comunque l'hanno confermato, quindi anche perché di altri non ne hanno. Hanno perso solo Roberto Garza come centro, che forse era andato in pensione, penso, e c'è un rookie forse. No, Montgomery si chiama, 71 starts Ah, con ecco. 4 squadre diverse, insomma, probabilmente perdono qualcosa anche qua. Insomma, diciamo che appunto, come dicevi te, la linea non è che sia particolarmente, insomma, Affidabile. sì, esatto. E sappiamo che se Cutler viene picchiato, magari qualche colpo lo perde. Sì, ecco, una cosa che ho visto guardando un po' della loro pre-season, per quanto possa contare, tra l'altro in questa pre-season Cutler non ha lanciato neanche un intercetto, quindi si vede proprio che la pre-season ha valore indicativo, però in ogni caso aveva come piano offensivo una gestione abbastanza oculata, era quasi in modalità controllata Cutler con piccoli lanci gestito abbastanza bene. Poi vabbè, sappiamo che alla fine il problema di Cutler è che a un certo punto gli parte lo schizzo e fa magari il lancio che non era stato chiamato e finisce con un intercetto, insomma, quando improvvisa che ha i suoi problemi Cutler. Passando alla difesa, invece, quest'anno con Vic Fangio sono passati da 3-4 Per cui vedremo anche Jared Allen magari stare in piedi come outside linebacker, un po' come ha fatto Peppers l'anno scorso da noi. In ogni caso, questa 3-4 particolare di Fangio, che ha avuto tanto successo contro di noi, si fonda sul fatto di tenere due safety profonde e rushare con 4, riuscendo a mettere pressione al quarterback con solo Ecco, 4 siamo difensive. fortunati che non hanno Justin Smith, non hanno Aldon Smith e non hanno gli altri fenomeni che avevano i 49ers, perché appunto tu dici c'è Jared Allen da una parte, dall'altra parte non so chi giochi e sicuramente al centro gli manca Rad Ratliff perché anche lui è squalificato per 4 giornate. Quindi... Hanno preso come outside linebacker McPhee, che Ah, era a McPhee da Baltimore, Baltimore, esatto, che che... lui è insomma un buon giocatore. Discreto, sì, Sì. ok, Era niente di trascendentale comunque. un giocatore da rotazione, non era un titolare a Baltimore. Esatto. E quindi opposto a lui Jared Allen, hanno Lamar Houston, che torna dall'infortunio al ginocchio, insomma gli ha ricostruito il ginocchio in questa offseason. E per quanto riguarda la defensive line, hanno preso questo nose tackle da Florida State, Eddie Goldman, che io Ah, sì. mi ero segnato il suo nome nel processo pre-draft pensando che prendessimo un nose tackle. E abbastanza forte, insomma, ha avuto un buon inizio di carriera, diciamo, in NFL tra la pre-season e il training camp, ne parlano abbastanza bene. Io ho visto qualche azione, si lasciava un po' trascinare in giro per il campo sulle azioni di corsa, però, insomma, come upside penso che ne abbia abbastanza. I due end sono Ferguson, che è stato un secondo giro nel 2014, viene descritto come con dei buoni piedi e buona potenza nella parte alta del corpo. E l'altro è Jenkins, che viene descritto praticamente come just a guy, cioè uno che sta lì, un nostro void probabilmente. Poi altri problemi, per esempio in difesa, ce li hanno come noi, probabilmente negli inside linebacker. Loro, vabbè, non possono spostare Matthews all'interno, per cui forse è peggio loro. Sì, non hanno sicuramente Navarro Bowman e Patrick Willis, Esatto, è anche lì. sicuramente. Quindi non lo so, neanche, no, non so se lo spostino McClellan, che era una draft di due, tre, di una pick di 2 o 3 anni fa, però neanche a Bowman non me li ricordo sicuramente. Sicuramente non sono più i tempi di Lance Briggs e Urlacher, Brian Urlacher, Lì ecco. erano bei tempi per loro. Beh sì, era un bel vivere per loro, un cattivo vivere per noi. E poi soprattutto anche per quanto riguarda le secondarie, sicuramente, cioè, hanno, a parte Kyle Fuller, che è la prima scelta dell'anno scorso, che ha alternato buone prestazioni ad altre meno buone, hanno tagliato Tim Jennings, a sorpresa, possiamo dire, sì, sicuramente a sorpresa, perché no, no, io non me l'aspettavo il taglio di Tim Jennings, sicuramente, e anche perché è avvenuto proprio anche questo alla vigilia dell'inizio della regular season, e le safety, sinceramente, io non me le ricordo neanche. Forse con te, una, No, con e te non c'è l'altra più, non me non la so dove sia ricordo. andato, ma non c'è più, Ah, ecco, forse è perfetto. diventato backup, non lo so, penso non ci sia più comunque, è arrivato in tre Ecco, roll ok, esatto, tre roller e come l'altro non me strong lo ricordo, safety e quindi poi sicuramente. c'è Amos che è scelta quinto giro di quest'anno, è abbastanza veloce, 4,47, sto leggendo, non so tutto a memoria io, è abbastanza fisico, sì, diciamo che anche come secondarie sono un po' così, Fuller ha del gran potenziale come dicevi te, l'altro opposto a lui è Ball, che è un veterano da 8 anni nell'NFL, spesso infortunato, è abbastanza buono in run support, niente Sì, di niente di trascendentale, ecco. speciale. Sì, sono, diciamo che sono in rebuilding mode, ma proprio all'inizio del rebuilding mode. Cioè, non è che... dire, cioè, a me John Fox è sempre piaciuto, okay? Non ha mai vinto il Super Bowl, però a me è sempre piaciuto sia a Carolina che poi anche a Denver. Okay? E sarà una stagione molto di transizione, dove non, sicuramente non si potrà chiedere moltissimo. Dove forse magari cercherà di creare magari un gruppo, uno zoccolo duro di giocatori su cui poi costruire l'avvenire. Non vedo niente di più di quello, quindi cioè, non saprei come altro spiegare Chicago, sinceramente. Sì, diciamo che probabilmente Alessandro, quando ti diceva che hanno sprecato gli anni di Fortè, questa qui deve essere una Sì. cosa di cui si mangeranno le mani, probabilmente, perché ormai penso che ce li abbia 30 anni, può essere. Mi pare sia, Siamo. sarà sicuramente 5-6 anni, 6-7 anni che è nella Lega, quindi per un running back comincia a avere i giri contati. Sì. Diciamo che comunque la cosa che mi fa pensare che la partita di domenica sarà abbastanza vicina nel punteggio, non come l'ultima a Lambo, per dire, è il fatto che appunto loro sono gli unici due punti di forza che hanno, sono tight end grosso, fisico, forte, che riceve e sa anche bloccare, che noi notoriamente soffriamo, soprattutto quando esce a ricevere in mezzo al campo, e il running back veloce, sgusciante, che rompe i placcaggi e che sa ricevere fuori dal backfield. Che E noi soffriamo. che noi soffriamo, per cui gli unici due punti di forza che hanno loro, cioè gli unici due punti che ci possono mettere in difficoltà, noi insomma. Sì, poi diciamo anche che è la prima partita, quindi sicuramente neanche, cioè i Packers che comunque vengono additati come una delle squadre che potrebbe andare molto in là nella stagione, non saranno sicuramente al 100%. È comunque un season opener che giocheranno in casa, quindi ci sarà il tifo a Chicago, c'è la rivalità che c'è tra Chicago e Green Bay, la più grande rivalità dello sport americano La e la più vecchia 191esima sicuramente. partita. Esatto. Mi pare di aver letto che se per caso quest'anno noi vinciamo tutte e due le partite, riusciamo ad pareggiare, a vedere 93 vittorie, sconfitte e un pareggio, quindi speriamo. Abbiamo recuperato molto terreno negli ultimi anni, dopo che negli anni 70-80, soprattutto nell'era di Mike Ditka, ci Abbiamo massacravano perse tutte, esatto. costantemente. Diciamo che tra Favre e Rodgers abbiamo guadagnato un bel po'. Sì. Mike McCarthy è 5-4 in week 1 da head coach e in particolare le ultime tre partite, in week 1 le abbiamo perse. Controbilanciamo il tutto come maggior numero di vittorie in trasferta nel season opener, che sono 53, e per cui magari in trasferta va meglio che in casa, non lo so. In ogni caso non è che... No, dai, siamo dati, mi pare, 6,5 punti favoriti. Adesso giochiamo al pronostico. Secondo me, vinciamo, secondo me. Ok, quindi Vai, non risultato sarà. esatto. Sì, risultato esatto, 30-17. Il mio invece è vittoria per noi 28-20, sulla base del fatto che a un certo punto proveranno a fare una trasformazione da due. Ah, Tutto io qua. ho detto, ah, io ho sparato a caso, quindi No, me l'ero vabbè. pensato. Ah, ecco, no, io al momento devo dire così. No, allora, soprattutto a me basta, non mi interessa assolutamente giocare bene, mi interessa solamente vincere, portarla a casa e che non ci siano infortuni. Fino alle prime 4-5 partite non guardiamo ancora la forma, vediamo le vittorie che cerchino di arrivare. Poi, ovviamente, se continuiamo a giocare male alla decima o undicesima, se problemi, è un problema un po' più serio. Ho Però ragione per posso dire una cui. cosa? Se anche giochiamo male e continuiamo a vincere, a me va benissimo uguale, non mi interessa. Certo, sì, però noi non arriviamo in fondo, per quello intendevo dire. Sicuramente, sicuro, quello senza dubbi, però se non giochi bene, prima o dopo la mazzata ti arriva, secondo me. Quindi, se magari cominci a costruire, magari i risultati arrivano alla fine. La ragione per cui, appunto, ti dicevo, non rischierei Cobb io domenica. Lo lascerei tra gli attivi, sicuramente, però magari cercherei di limitarne l'uso. Gli darei la possibilità magari di non avere una quasi altra settimana di riposo, visto che domenica prossima sarà sicuramente importante. Sì, magari metterlo nei primi drive come specchietto per le allodole per poi. Esatto, senza fargli prendere qualche mazzata che magari c'è. Cioè, diciamo che è una partita che secondo me dobbiamo riuscire a portare a casa anche senza Coppa, questa qui voglio dire, quindi. Poi vabbè, ovviamente è any given Sunday, quindi per l'amor di Dio, la partita può mettersi male, che ne so, due fumble, o due giocate, due giochi che vanno sbagliati e sei là a rincorrere, quindi magari. Ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato, visto che adesso mi è fatto venire in mente la questione infortuni, Morgan Burnett non si sa che cosa abbia. Qualche Calf, minuto. leggevo io. Sì, non si sa se giocherà domenica, tra l'altro. La conferenza stampa una mezz'oretta fa, Mike McCarthy non ha detto quindi, né se giocherà né se non giocherà, e ha detto vedremo come prosegue la faccenda. Al suo posto ci sarebbe altrimenti Hyde, che l'ha anche sostituito in pre-season quando è mancato in week 3, mi pare, che anche lui viene da un infortunio, questo neck spasm che ha avuto, e Hyde non offre comunque le garanzie, soprattutto il run support che offre Burnett. Insomma, è una cosa da tenere Esatto. d'occhio questa qua. Speriamo che ci sia questa Speriamo non calf. sia niente di grave, più che altro, quindi. E per cui sì, per quanto riguarda il fronte infortuni, altrimenti con Cobb che è stato limitato in allenamento, così come Barrington che ha un problema alla caviglia, gli altri fino a ieri erano a posto, speriamo che non si facciano male oggi. Tra l'altro McCarthy ha detto che quella di oggi sarà la la practice più pesante della settimana, quindi attenti Sì, ragazzi. anche perché mi pare che domani riposino e invece si allenino sabato di solito. L'anno scorso mi pare facciano così. Sì, al venerdì mi pare che di solito facciano massaggi e cose di questo tipo, insomma. Allora, Matte, io dico che la parte relativa alla partita di domenica la possiamo chiudere qua. Volevo solo dare due piccoli aggiornamenti. Una è una voce di corridoio, il classico rumor che gira ogni tanto e probabilmente non è nulla di vero. Però ieri girava la voce, riportata e retweetata anche da alcuni blogger e giornalisti, insomma, che seguono i Packers, secondo la quale i Packers sarebbero appunto tra le squadre interessate ad Aldon Smith, outside linebacker dei ex 49ers, adesso rilasciato e sempre nei casini, però un grandissimo giocatore. Grandissimo cretino e grandissimo giocatore. Sì, assieme ai Packers ci sarebbero interessati i Giants e i Bears, ovviamente perché c'è Fangio, e comunque le squadre interessate vogliono prima aspettare di capire se verrà squalificato e per quanto, prima ovviamente di prenderlo. Tu ci credi? Va, oddio, Aldon Smith a Green Bay mi pare fantascienza, però, l'amore di Dio, cioè, diciamo niente, però. Cioè, se si potesse soltanto farlo giocare quando deve giocare, poi disattivarlo per poi riattivarlo quando. Anche, diciamo anche che Green Bay magari ha qualche distrazione in meno di San Francisco, però no, non lo vedono per una mossa alla Ted Thompson, quindi mi parebbe un po' strano. Sì. L'altra cosa invece mi è arrivata una notifica sul cellulare prima di iniziare a registrare, quella per la quale i Vikings hanno messo nella temporary IR, quindi la injury reserve temporanea, il loro centro titolare John Sullivan, Ah, però. che è andato sotto i ferri per una. Che è sotto i ferri, dai, non so cosa sia, è inutile. No, beh, Lumbar insomma, microdiscectomy, dissettomi. microdiscectomia lombare. È Hai visto? perfetto, bene. Hai visto? Fatto. Tutto qua, Detto questi, questo, una cosa degna di nota. mi pare che i Basta. nostri milioni di ascoltatori non ci avessero fatto nessuna domanda. Forse Gianni Cidioli qualcosa, però non me lo ricordo. Sicuramente quello che scrive Gianni Cidioli non ci importa di solito. Quindi, no, scherzo. Sappiamo che è diventato padre per la seconda volta. Quindi, congratulazioni a lui. Certo. E dai, ci sentiamo settimana prossima. Speriamo di avere Alessandro con noi. Speriamo di poter un po' prendere bonariamente in giro. Esattamente. E basta, dai. Go Speriamo. E basta. Godiamoci questa prima week, first week. back go. Sempre. Ciao. Ciao, Sal. Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, really, really, really, really, really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For Cripes' sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck.